girare come una trottola. Immagino. No, io volevo appunto un commento sull'apertura di questa edizione del SAIE e sull'importanza che riveste, sulle tematiche scelte, insomma, quelle tre parole d'ordine che la contraddistinguono così bene. Ma le parole d'ordine sono riqualificazione, riassetto del territorio, sono queste, diciamo, le parole del futuro del nostro mondo in generale dell'edilizia. Il SAIE esprime, attraverso un convegno di venerdì proprio sul tema della riqualificazione, esporrà, diciamo, questi contenuti che già esprime attraverso il sistema espositivo fieristico. Insomma, è chiaro, la sfida è importante, questo è quello che la Fiera di Bologna propone quest'anno. Ci prepariamo già alle prossime edizioni, sempre più attenti alla nuova cultura dell'abitare. Ecco, è un segnale estremamente positivo, a mio parere, che la Fiera e comunque tutti gli espositori presenti, un grandissimo numero eccetera, non abbiano assolutamente abbassato la testa nonostante anni per il settore oggettivamente difficili. No, abbassare la testa, qui non... Allora, l'edilizia rappresenta circa il 13% del PIL nazionale, quindi con tutto l'indotto che esprime, non si può abbassare la testa. Diciamo che questa crisi deve insegnare che c'è un modo diverso anche di fare impresa per le imprese, ma di fare impresa anche per tutti i fornitori che sono legati all'indotto dell'edilizia. Occorre spingersi nella riqualificazione energetica, negli standard prestazionali, qualitativi, di rispetto dell'ambiente. Ecco, è un mestiere che cambierà nei prossimi anni, perché cambia la sensibilità che è legata alla cultura dell'abitare, ma anche alla cultura del fare impresa legato al territorio. Quindi, da ogni crisi bisogna anche trovare qualche elemento di miglioramento, insomma, di positività, ecco, perché no? Okay.